E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono, come sempre, il vostro Jean-Luc. Ritornano interviste, ce ne saranno parecchie, e dal modenese stasera ci sono venuti a trovare alcuni componenti di una formazione power metal che ci presenterà il suo disco. A voi la parola, ragazzi. Ciao, ciao a tutti, noi siamo i Trick or Treat. Io sono Guido. Io sono Cabri. Yeah. E con i Trick or Treat, una prima parte dedicata alla new wave of British heavy metal dei primi anni 80, con alcune delle formazioni meno note, ma non per questo importanti. Abbiamo iniziato con i Samson e il brano Hammerhead dal disco di debutto Head On del 1980. La band che ha portato all'attenzione di tutti il futuro Maiden Bruce Dickinson, che è poi andata scendendo di popolarità. Comunque i loro primi dischi rimangono interessanti, voi che ne dite? Ma direi di sì, guarda, a me me l'hai fatti praticamente conoscere quasi tu. No, però sembrano interessanti. Quelle sonorità un po' anni 70 che ci vogliono sempre. In particolare il loro batterista che suonava nella gabbia con quello. La maschera, esatto. Sì, sì. Bello, bello. Allora, la storia di Trick or Treat inizia nel 2002. Come vi siete formati e perché avete scelto un nome che richiami Halloween? È una storia lunga, la conto tutta o abbrevio? Radiofonicamente devi andare un po' veloce, diciamo. Sì, siamo partiti nel 2002 come tributo agli Halloween, perché io praticamente sono un gran fan e cantante, anche un gran fan degli Halloween. E il problema del tributo agli Halloween è che io ero da solo. Aia. Non cercare della gente, prima i musicisti con lì era abbastanza facile, trovare, perché conoscevo già il bassista Leone, Guido lo conoscevo già. Invece i cantanti non lo conoscevo. Cioè, mancava lui. Dopo. E non è poco, insomma, manca il cantante. Un tributo agli Halloween. Sì, tributo agli Halloween. Poi abbiamo conosciuto Halle, insomma, dopo ho fatto 2 anni di in giro per l'Italia come tributo agli Halloween, poi dopo un po' uno si rompe un po' di fare le cover, a fare roba nostra. E siamo messi a fare il primo demo like Donald Duck, e lo regalavamo ai concerti. C'erano 4 brani dentro che sono poi finiti nel nostro disco, è uscito 2 anni dopo, nel 2006, che si chiama Evil Needs Candy Chew. E lì ho cominciato a girare un po' la cosa, andavamo in giro per i locali, si chiamavano... la gente a partecipare, conoscevi i pezzi così. Poi insomma via via, pian piano siamo eccoci qua con il nuovo disco, si chiama Teen Soldier. E poi dopo abbiamo un po' di parlare, insomma, di questi dischi. Va bene. Proseguiamo con i Grim Reaper, la band di Nick Bowcott e del possente vocalist Steve Grimmett, riformatasi da alcuni anni, dal disco di esordio See You in Hell del 1984 con l'omonimo title track. We'll be right back. band sfortunatissima, dopo un esordio strepitoso, quando si dice la mala sorte ti mette i bastoni tra le ruote. Eh sì. A quanto ne so, tra l'altro, cos'è successo? Un problema con la casa discografica? Solito problema. Sì, sì. Ormai succede molto, molto spesso. Eh sì. E via. E vostre esibizioni, come sono andate e quali le reazioni del pubblico al vostro coinvolgente set? Come sono andate e come stanno andando? Appunto. Sta andando molto bene, soprattutto le ultime che cominciano a fare dei bei localini. Ho suonato all'Italian Ghost of Metal, all'Alcatraz. Ha fatto la Sharp, sottolineiamo, soprattutto a Milano, che sì, esatto. Poi insomma adesso la gente è abbastanza presa, no, secondo me. Bene, bene. Siamo un set con molte meno cover rispetto al passato, cerca di evitare soprattutto quelle degli Halloween, che sinceramente io sono stra fan degli Halloween, però suonare bisogna anche un po' spaziare dopo 200 volte che le suoni c'è un po' rotto, dai. Concludiamo dunque questa prima parte con le Rock Goddess, il trio tutto al femminile guidato dalla chitarrista Jodie Turner, esordisce con l'omonimo disco del 1982, dimostrando che il metal può anche essere suonato dalle donne. Da quel disco ho scelto il brano My Angel, fra poco con la seconda parte.